4i. Ascolta e completa. Lei vada alla posta e loro vadano in banca. Lei vada al cinema e loro vadano a teatro. Lei vada al ristorante e loro vadano in pizzeria. Lei venga qui alle 8. Loro invece vengano alle 9. Lei venga da me a pranzo. Loro invece vengano da me a cena. Lei venga a casa mia oggi. Loro invece vengano a casa mia domani.